Focus Economia. Gentili ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666, numero per i vostri SMS. In questa giornata ci sono parecchi argomenti, a partire dal primo incontro che ha avuto il ministro della giustizia Angelino Alfano con gli ordini professionali per ragionare un pochino sulla riforma degli ordini professionali. Sapete che ci sono state molte discussioni in merito in queste settimane, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, soprattutto sul tema naturalmente delle tariffe minime. Parleremo, ve lo accennava già il GR, c'è stato il bollettino economico della Banca d'Italia diffuso oggi, ci sono dati interessanti sia sul fronte della pressione fiscale, come già appunto riferiva il giornale radio, ma anche sul fronte dei consumi, c'è una preoccupazione della Banca d'Italia proprio appunto per i consumi, e poi naturalmente sull'occupazione. Parleremo di Spagna perché se la Grecia si sta preparando ai primi incontri con il Fondo Monetario e con la Commissione Europea per stabilire insomma il quadro degli aiuti, e mentre il mercato non sembra premiare le speranze della Grecia, gli occhi già si volgono appunto alla Spagna e al Portogallo, che versano in una condizione economica particolarmente difficile. Infine parleremo anche di lavoro nero, perché ci sono dei dati interessanti che sono stati diffusi oggi dal presidente dell'Istat e che indicano che sostanzialmente negli ultimi 10 anni la variazione è stata piuttosto scarsa. I mercati oggi vanno bene, ve lo diciamo subito, come al solito approfondiremo al momento della chiusura. Il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, il FTSE All Share lo 0,42%. Da segnalare per quanto riguarda l'America che il Dow Jones si mantiene sopra la soglia degli 11.000 punti raggiunta qualche giorno fa e guadagna lo 0,11%. Lo Standard & Poor's 500, altro indice di riferimento, è salito ieri sera sopra quota 1.200 punti e ci resta, guadagnando lo 0,25%. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziando dall'andamento del petrolio, come sempre a New York ha aperto stabile ad $85,73 al barile. Ci sono anche dati diffusi dall'Unione Petrolifera che riguardano i consumi in marzo, cresciuti dello 0,1% e scesi del 2,9% per quanto riguarda la benzina. L'economia internazionale ci consegna alcuni elementi interessanti, a partire dal PIL cinese nel primo trimestre, schizzato ad un più 11,9%. Si tratta della maggiore crescita nell'ultimo triennio. Nello stesso periodo, gennaio-marzo, la produzione industriale cinese ha sfiorato una crescita del 20%. Insomma, dimensioni, come sempre per quanto riguarda la Cina, variazioni per quanto riguarda la Cina, ragguardevoli quantomeno. I dati sui sussidi di disoccupazione americani sono cresciuti di 24.000 unità, 484.000 la scorsa settimana. In realtà le previsioni erano per un ribasso, come avete visto, però i mercati non ne risentono più di tanto, così come non risentono dei dati sulla produzione industriale americana in marzo, che ha segnato un rialzo dello 0,1% contro stime per un più 0,7%. Si diceva della Grecia. Atene si prepara ad attivare il meccanismo di sostegno, ci sono degli appuntamenti previsti il 19 di questo mese, quindi tra pochi giorni. È attesa una delegazione della Commissione Europea, è attesa anche una delegazione del Fondo Monetario Internazionale. E poi, secondo il Wall Street Journal, la Grecia avrebbe ridotto ad appena $1 miliardo le sue previsioni sull'ammontare delle obbligazioni che riuscirà a piazzare attraverso un'emissione rivolta al mercato americano, ma Atene nega. E però forse il dato più interessante di oggi è quello di mercato, perché nonostante le rassicurazioni, insomma, il mercato continua a puntare contro la Grecia. I tassi greci continuano a puntare al rialzo, quelli sul decennale in tarda mattinata giravano attorno al 7,40% contro il 7,05% di ieri, livello più elevato naturalmente da venerdì. c'è il bollettino della Banca Centrale Europea, nel quale sostanzialmente si ribadiscono cose che la BCE sostiene da qualche tempo, ossia la ripresa in Europa prosegue, la crescita nel 2010 sarà moderata e poi i tassi in Eurolandia sono adeguati e l'inflazione è moderata, sarà moderata, insomma, quanto la crescita. E poi ancora la BCE lancia un messaggio ai governi: nel mercato del lavoro una sufficiente flessibilità dei salari, il potenziamento degli incentivi all'occupazione sono necessari per prevenire una disoccupazione strutturale più elevata nei prossimi anni. Più puntato sull'Italia, ma non con diversi contenuti, non con contenuti radicalmente diversi, invece il bollettino della Banca d'Italia, che parla di ripresa debole, sulla quale pesa un ristagno dei consumi. Approfondiremo il tema dei consumi più avanti. Dice Banca Italia che tuttavia uno stimolo temporaneo dovrebbe arrivare a partire da aprile grazie agli incentivi decisi dal governo. Da oggi, vi ricordo, è possibile acquistare con lo sconto una serie di cose: ciclomotori, cucine, elettrodomestici, abbonamenti a internet veloce. Per tutti i dettagli trovate molto sul sito del Sole 24 Ore e poi potete scaricare in podcast le trasmissioni di Salvadanaio di oggi e di ieri, che si sono occupate proprio del tema. Ancora la Banca d'Italia: il deterioramento dei conti italiani è risultato più contenuto che negli altri principali paesi avanzati, dice Banca Italia. E poi parla delle prospettive del lavoro. Nel 2010, dice l'istituto di Palazzo Koch, restano incerte, più o meno come ci si attendeva. Anche di questo, anche di lavoro, parleremo più avanti. E segnala l'istituto, la Banca Centrale, anche ancora la difficoltà delle imprese nell'accesso al credito. Veniamo alle buone notizie, invece, quelle sul commercio estero. Sono i dati diffusi dall'Istat questa mattina: l'export in febbraio è cresciuto del 7,3% rispetto all'anno precedente, il top dal 2008, le importazioni sono cresciute del 12,9%, sempre su base tendenziale. Rispetto a gennaio, e forse questi sono sempre i dati un pochino più interessanti, l'export è cresciuto del 2,5%, l'import del 3,6%. Ottimo segnale dalla Cina: l'export verso Pechino è cresciuto del 32,7% nei primi due mesi dell'anno. Ancora l'Istat, che segnala invece, qua parliamo di lavoro nero, ne parleremo più avanti nella seconda parte del programma, ci sono quasi 3 milioni di lavoratori in nero, insomma un problema storico italiano che difficilmente si riesce a risolvere. Certo, è calato negli ultimi 10 anni, nel 2001 erano 3.280.000 i lavoratori in nero, e però insomma lo stock, se così possiamo chiamarlo, pur parlando di persone, resta là. Ancora discussioni dopo le parole di Umberto Bossi di ieri sulle banche. Su questo argomento non faccio commenti, dice il consigliere delegato Intesa San Paolo Corrado Passera. E poi invece, parlando di Intesa San Paolo, Passera ha detto: Enrico Salza è una persona che contribuisce a rendere molto solida e libera questa grande organizzazione, così in merito ad un possibile arrivo alla presidenza del consiglio di gestione di Domenico Siniscalco. E però ci sono anche alcune dichiarazioni politiche all'interno della stessa maggioranza. Claudio Scajola, ministro dello sviluppo economico: teniamo la politica il più lontano possibile dal sistema finanziario, facciamo solo il bene dell'Italia e degli italiani. E ancora il leader della CGIL, Guglielmo Epifani: la politica deve fare un passo indietro sul sistema bancario, già in passato sono stati fatti guasti al sud, non si possono ripetere al nord. E veniamo al primo tema di questa giornata, la riforma delle professioni. Allora, oggi a Roma c'è stato un incontro di notevoli dimensioni, perché c'era il ministro della giustizia Angelino Alfano, ma c'erano anche i 25 presidenti degli ordini professionali italiani. Oggetto della riunione il varo di una serie di misure a sostegno del mondo delle professioni, ma soprattutto la riforma degli ordini. Sul tavolo la reintroduzione delle tariffe minime eliminate dalle liberalizzazioni di Bersani, un sistema di incentivi e agevolazioni per aiutare notai, avvocati, commercialisti e così via a superare il momento di crisi. Allora, il tema ci sembra centrale naturalmente, quello delle tariffe minime, perché è il tema del quale si è discusso di più, perché naturalmente non riguarda solamente gli ordini professionali, ma riguarda anche i comuni cittadini. Facciamo un passo indietro, anche due o tre in realtà, e andiamo al 2006. Il ministro per lo sviluppo economico di allora, Pierluigi Bersani, presentava così gli interventi per il mondo delle professioni. Noi facciamo una operazione che cancella le disposizioni normative e regolamentari che prevedono tariffe obbligatorie fisse o minime, divieto di pubblicità, divieto di società professionali. Sono i tre punti sui quali antitrust, Unione Europea, eccetera, ha insistito. Quindi i codici che prevedono questi meccanismi devono essere tempestivamente adeguati secondo date prefissate. Questa non è la riforma delle professioni, ci mette in condizione, in tempi ritengo molto brevi, di operare anche sull'insieme del problema delle professioni, però cominciando, diciamo, ad affermare alcuni punti fermi, che sono questi tre che ho detto. Più di recente, però, sulla reintroduzione delle tariffe minime è intervenuto anche Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, che nel corso di Ballarò il 6 aprile scorso ha parlato di un passo indietro. Per l'Antitrust la tariffa minima è come il lupo dentro il pollaio, cioè stiamo parlando di un prezzo concordato assolutamente inaccettabile. Tra l'altro le tariffe professionali sono un labirinto oscuro in cui gli unici che si sanno orientare sono i professionisti. Il cliente di un avvocato, ma cosa capisce di un tariffario legale? Il punto di tariffa tipo, non lo so, fascicolazione, ma che significa pagare diritti di fascicolazione? Che significa pagare diritti di vacazione? Io penso che il cliente voglia sapere quanto gli costa un divorzio, quanto gli costa uno sfratto e in che tempi li può ottenere. Allora su questo ci si mette d'accordo con l'avvocato: mi garantisci questo sfratto in un anno? Allora ci mettiamo d'accordo per tot di onorario. Senta. È inaccettabile, noi l'antitrust non lo può accettare, è un prezzo concordato tra l'altro da una categoria non in contraddittorio con l'altra parte, non è accettabile per noi. Questo dunque era Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust. Su questo tema naturalmente al 349-238-6666 inizia ad arrivare qualche messaggio, vedremo di rispondere. Saluto intanto Laura Cavestri, collega del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto in studio e si sta un po' occupando del tema. Laura, buonasera. Allora Laura, abbiamo sentito la posizione di Bersani di allora, che in realtà poi non è cambiata. Abbiamo sentito la posizione di Catricalà, la posizione degli ordini è completamente diversa. Sì, è stata completamente diversa sin dal 2006, quando ci furono queste affermazioni di Bersani, poi il decreto che in qualche modo quasi improvvisamente conteneva queste norme, in realtà piccole limature a alcuni articoli, come dire, in tre commi in pratica scardinava tre elementi, ma soprattutto il tabù delle tariffe minime. Le tariffe minime sono fondamentalmente tariffe inderogabili, al di sotto del quale l'ordine era chiamato ad intervenire anche su eventuali denuncia di colleghi o di clienti, consumatori, se fossero state praticate. Di fatto il tariffario esiste ancora, non è più vincolante, nel senso che si può derogare alla tariffa minima, è questo che Bersani ha consentito attraverso il suo decreto liberalizzazioni, tant'è vero che alcuni professionisti, in realtà pochi per la verità, ma insomma soprattutto alcuni giovani professionisti hanno utilizzato questo strumento, anche se l'occhio vigile degli ordini professionali in qualche modo ha continuato ad essere in qualche modo molto solerte nel monitorare questa volontà in qualche modo di non andare contro la legge, perché la legge non consente più consente di derogare alle tariffe minime. Il problema è che su questi professionisti sono tutti molto d'accordo, c'è una forte concorrenza che i professionisti subiscono da tutta una serie di strutture che possono essere i servizi alle imprese offerti appunto da strutture in qualche modo collegate, società di servizi, uffici all'interno delle organizzazioni di rappresentanza dei commercianti, degli artigiani, delle imprese, delle piccole imprese, che in qualche modo hanno supplito ad alcuni servizi e prestazioni che svolgevano, come consulenza fiscale, giuridica, avvocati, commercialisti. E però Laura, questo avviene in tutti i paesi? Questo avviene in tutti i paesi. In realtà le professioni hanno in qualche modo sentito molto, in maniera particolare, il peso di queste, come dire, di questo deterioramento in qualche modo della propria capacità di competere e della propria, e probabilmente anche una perdita progressiva di rendite, di posizione, che non soltanto la crisi è stata molto forte, tant'è vero che il 70% dei professionisti, ecco, questo è interessante, perché ci dicono, Laura, al 349-238-6666 ci chiede un ascoltatore: ma lei veramente crede che il settore dei notai o degli avvocati sia in crisi? Per favore, è solo l'ennesimo favore alle loro lobby. Al di là di quel che ci scrive Matteo da Pescara, in realtà la crisi l'hanno sentita. La crisi l'hanno sentita perché bisogna tenere conto di una cosa: alcune materie, come alcune, appunto, molte delle prestazioni, per esempio dei notai, così come la difesa in giudizio per gli avvocati, sono materie esclusive e riservate a queste categorie, ma tutta una serie di prestazioni, anche, come dire, ben remunerate e che costituiscono un grande business, come la consulenza giuridica, fiscale, economico-finanziaria, del lavoro, sono materie che per legge non sono riservate, per cui i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli avvocati si trovano a gestire la concorrenza sia appunto di strutture di servizi organizzate anche in maniera più aziendale, in qualche modo più di impresa, che quindi sono capaci di fare di economie di scala e quindi prezzi più concorrenziali, dall'altro tutta una serie di professionisti che non si sono abilitati con un esame di Stato. Penso a tutto il mondo dei consulenti tributari, che non sono abilitati, a tutta una serie di figure professionali trasversali, consulenti di marketing, consulenti di varia natura, di varia provenienza, che magari sono fuoriusciti da aziende e si sono messi in proprio. Cioè c'è un settore in qualche modo che subisce una forte concorrenza, e le professioni regolamentate con esame di Stato, quindi ordini e collegi, si sentono fortemente sotto attacco. Allora, chi la butta in politica, diciamo che non è questa la sede, naturalmente, perché stiamo cercando di capire, insomma, che cosa veramente sta succedendo. Facciamo una cosa, sentiamoci due opinioni diverse che vengono, se così possiamo dire, dal settore, ecco, insomma. Ospite questa mattina di 9 in punto, il programma di Radio 24 condotto da Oscar Giannino, il presidente Guido Alpa, ha riassunto così le critiche degli avvocati alle liberalizzazioni di Bersani. La riforma Bersani ha prodotto, da un lato, una depressione dell'attività forense, perché se ne sono approfittati i grandi potentati economici, e quindi le banche, le imprese di grandi dimensioni, le assicurazioni, imponendo agli avvocati dei compensi, non posso più chiamare tariffe, che erano al di sotto addirittura delle spese, e di cui ovviamente sono stati tutti danneggiati, e abbiamo anche la solida preoccupazione che questa condizione abbia depresso anche la qualità dell'esercizio dell'attività professionale. E dall'altro ha introdotto il patto di quota lite, che dal nostro punto di vista, oltre a violare uno dei principi sacri della professione, cioè che il compenso deve essere adeguato, ma non si può non può essere una sorta di sfruttamento, ecco, della posizione nei confronti che ha l'avvocato nei confronti del cliente, né si deve l'avvocato, al di là dei premi possibili per una vittoria della causa, avvalere di questa disciplina per poter acquisire dei vantaggi ingiustificati. Allora, a chi insiste, diciamo, qua nessuno sta difendendo le tariffe minime, assolutamente, non ce ne vogliono gli avvocati, ma insomma qua non si stanno difendendo le tariffe minime, tant'è vero che vi facciamo sentire anche l'altra campana, altrettanto interessante. Cristiano Cominotto, avvocato e promotore del primo studio legale su strada in Italia, insomma sono quei negozi, chiamiamoli così, quelle vetrine dalle quali si può accedere ad uno studio di avvocati. discorso del ristabilire il minimi tariffario o meno, francamente mi sembra un discorso secondario rispetto agli aspetti che soffre in questo momento la nostra professione. Io credo che dobbiamo guardare all'estero. In Inghilterra in questo momento stanno discutendo di quotare in borsa gli studi legali, stanno discutendo l'accesso dei capitali delle società negli studi legali, iniziative che sicuramente sono discutibili, iniziative che forse non saranno giuste, però insomma non dimentichiamo che l'Inghilterra è in Europa e quindi secondo me, ecco, noi soffriamo un po' in questo senso di provincialismo, cerchiamo in qualche modo di restaurare delle norme che ricorrono al 1930, quando l'Europa sta andando in una direzione ben diversa. Questa è l'opinione dunque di Cristiano Cominotto, avvocato e promotore del primo studio legale su strada in Italia. Tantissimi i messaggi, comprese le battute: propongo una tassa sui cassa integrati per finanziare i notai poveri, ci scrive un ascoltatore. Adesso c'è una breve pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Allora, la buttiamo là come provocazione di un ascoltatore da Lecco che ci scrive: introdurre tariffe massime, no? Insomma, molti messaggi sui notai. Dunque, sentiamo proprio il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli, al microfono di Maria Chiara Grandis. Noi notai abbiamo anticipato da tempo una serie di questioni che sono nel tema della riforma, e per esempio l'assicurazione obbligatoria, la formazione continua, la riforma dell'accesso, investimenti tecnologici ingentissimi, il favore ai giovani con borse di studio ed aumento del numero dei posti chiesto al ministro. Abbiamo segnalato che abbiamo una specificità perché la nostra professione è al servizio di una pubblica funzione, controllo di legalità e di sicurezza giuridica, e nell'ambito di questo c'è anche il tema della tariffa, che deve essere in modo chiaro, certo e trasparente garantita, proprio per evitare che scorriamo dei rischi dal punto di vista della imparzialità e di una funzione che noi non possiamo rifiutare, nel senso che la nostra è una prestazione obbligatoria, quindi mal si presta con una contrattazione del costo che deve essere stabilito dal Ministero secondo una tariffa, ripeto, chiara, equa, trasparente. Il commento di Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori: stiamo assistendo ad un dibattito per definire soluzioni alla questione delle professioni che ricorda molto la rivendicazione di diritti e privilegi delle corporazioni medioevali, cioè piuttosto duro Trefiletti. Laura Cavestri, il punto è anche che gli ordini professionali, e mi riferisco in particolare agli avvocati e ai commercialisti, si trovano con un numero di concorrenti perfino esagerato in questo paese. Quindi la loro paura, il loro timore, a prescindere da che la tariffa minima sia giusta o meno, non vogliamo entrare in questo merito, il loro timore è che insomma gli venga sottratto qualcosa, perché ce n'è un numero veramente esagerato. Il mercato naturalmente quello che è, e gli spazi sono quelli che sono. Naturalmente qui ci sono diversi ordini di problemi, c'è un problema di concorrenza, come dire, di professionisti, di lavoratori autonomi, di società, di strutture che vuol dire che al di fuori dell'albo, che in qualche modo rispondono al mercato e che in qualche modo si sovrappongono per competenze, per attività, e quindi sono una concorrenza, come dire, che viene dall'esterno. Ma c'è anche una forte concorrenza interna, perché uscendo dal cliché del professionista affermato con la targa d'ottone e i divani in pelle e tutto quanto, dobbiamo pensare che soltanto gli avvocati sono 230.000, entrano 14.000 avvocati ogni anno all'interno dell'ordine. Quello che era uno status, quello che era la ricerca di una rendita di posizione, non può più essere tale. Anche perché c'è una massa crescente di giovani che entrano nella professione, si abilitano, non hanno i mezzi, l'accesso al credito per aprire uno studio individuale, spesso restano a lavorare come monocommittenti presso, come collaboratori, perché il professionista non può essere assunto, se no non è più un professionista indipendente, quindi con collaboratori a partita IVA, come dire, per remunerazioni assai ridicole, presso, come dire, avvocati o commercialisti o professionisti, studi più affermati, c'è una dimensione di studio in Italia, la cultura purtroppo non è quella manageriale, imprenditoriale delle professioni anglosassoni, ma ci sono dimensioni di studio che sono polverizzati sul territorio, tranne Roma, Milano e alcune città che hanno delle realtà più significative, ma parliamo di piccoli studi, uno o due soci, una o due segretarie, alcuni collaboratori, quindi realtà anche molto piccole che difficilmente riescono a fornire dei servizi, multidisciplinari e multitasking. Tant'è vero che oltre al problema delle tariffe, quindi della capacità di contrattare non solo col cliente privato e piccolo, ma anche con la società, con la grande azienda, delle tariffe in qualche modo adeguate. In questo senso la grande azienda è un partner forte del piccolo professionista, e quindi il professionista sente in qualche modo in difficoltà rispetto a questo tipo di contrattazione. C'è anche il problema appunto delle dimensioni degli studi, e che infatti la società, che tipo di società darsi, perché Bersani ha in qualche modo eliminato il divieto di fare delle società professionali e interprofessionali, ma che struttura può darsi una società professionale? Un avvocato, un commercialista, un consulente del lavoro possono associarsi? Oggi non è possibile, con un professionista che non si è iscritto a un altro albo. Insomma, c'è una struttura dello studio in qualche modo multidisciplinare che si deve in qualche modo costruire con delle norme. Ci sono appunto dei vuoti legislativi molto gravi, perché le leggi istitutive delle professioni risalgono spesso agli anni 30, quindi ci sono proprio delle difficoltà. Darsi un'organizzazione dello studio è necessario, ma è necessario appunto darsi una disciplina normativa che consenta di potersi associare, che consenta di poter in qualche modo introdurre un socio di capitali. Sì, no, alcune professioni dicono sì, soprattutto quelle tecniche, gli avvocati dicono assolutamente no. Insomma, qui anche all'interno delle professioni un po' le esigenze divergono, per cui comunque la riforma è una riforma che dovrebbe dare anche degli strumenti di competitività al di là delle tariffe, naturalmente, ma anche qui di questo ci sono molte buone intenzioni, ancora i progetti staremo a vedere quali saranno. Naturalmente, vedremo che cosa succederà. Ringraziamo intanto Laura Cavestri, collega del Sole 24 Ore, per averci aiutato a fare un quadro. Lo ripetiamo, qua non abbiamo espresso opinioni perché continuano ad arrivare messaggi su questo tema. Non è che qua si stanno sostenendo le posizioni degli avvocati o dei notai in merito alla questione delle tariffe minime, al di là della questione di un eventuale sostegno economico da parte dello Stato in questa fase di crisi. Non si sta sostenendo assolutamente questa tesi, si sta riferendo quali sono le posizioni in campo. Insomma, poi tutti noi ne conosciamo di giovani avvocati che negli ultimi 3-4 anni sono riusciti a entrare nel mercato solamente grazie all'abolizione delle tariffe minime, e questo tutto sommato francamente è un bene. La borsa. Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la giornata complessivamente mi sembra abbastanza positiva. Nuove tensioni sulla Grecia, ma grosso impatto sui mercati, almeno sui mercati europei, non sembrano averne avuti. Esatto, soprattutto a dire la verità in mattinata qualche timore c'era stato, infatti i listini avevano perso terreno sull'allargamento, nuovo allargamento degli spread dei titoli di Stato greci rispetto agli altri riferimenti. Sul finale invece ha prevalso l'ottimismo, soprattutto dato che sono sempre più concreti i segnali di un avvio del programma di aiuti alla Grecia. I mercati avevano risentito dell'incertezza su queste misure di aiuti di cui erano state approvate le condizioni, ma di cui ancora non si sapeva granché sull'applicazione, e adesso si è saputo che lunedì partirà la missione del Fondo Monetario Internazionale proprio in Grecia, e allo stesso tempo il Ministro delle Finanze greco ha invitato la BCE, l'Unione Europea e il Fondo a discutere insieme le politiche economiche, che sono tutte passi che secondo gli analisti preludono a un avvio concreto del piano di aiuti. Questo ha sostenuto i listini, che almeno sono rassicurati sull'intervento di questi aiuti concreti, che hanno chiuso in rialzo. Allora, vediamo di dare un quadro di come sono andate le cose sui singoli titoli. Enel un guadagno di 1,5%, Atlantia dell'1,24%. Ci sono previsioni positive sui conti qua, Paolo? Sì, esattamente, per quanto riguarda Atlantia sono state proprio le parole di ieri dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci, che ha detto di prevedere nel 2010 un miglioramento del conto economico della società, anche se è ancora presto per dire quanto. Ha sottolineato comunque l'indicazione è positiva e ovviamente gli investitori hanno scommesso sul titolo, che ha sfiorato in chiusura a quota 18 euro, ha chiuso a 17,95 euro. Per quanto riguarda invece Enel, che è stata la migliore del paniere principale, è salita dell'1,56%, il titolo ha beneficiato sia delle sue caratteristiche difensive nell'avvio della seduta quando i listini erano in calo, e poi beneficia delle notizie positive sul fronte dell'indebitamento, che a partire dall'acquisizione di Endesa è un po' il punto su cui si concentrano sempre gli analisti e gli investitori. Infatti oggi il direttore finanziario del gruppo Ferraris ha sottolineato che tutti gli eventuali proventi della quotazione di Enel Green Power andranno proprio a ridurre il debito, e inoltre ieri erano circolate indiscrezioni sul prossimo via libera di un rifinanziamento di 10 miliardi proprio del debito di Enel. Allora, bene la Popolare di Milano più 1,21%, bene Luxottica più 1,10%, e bene oggi anche Fiat. Soffermiamoci sul lingotto, Paolo. Per quanto riguarda Fiat sono tornate a circolare alcune indiscrezioni sul piano industriale del gruppo e soprattutto sui nuovi modelli che saranno lanciati in futuro sia dalla Fiat che dalla Chrysler. Il titolo è quindi tornato sotto i riflettori mentre si avvicina l'appuntamento del 21 aprile, quando sarà presentato il piano industriale. Ricordiamo che la data è stata indicata più volte proprio dall'amministratore delegato Sergio Marchionne come quella in cui saranno forniti nuovi dettagli anche sull'ipotesi di uno spin-off della divisione auto, che è un progetto su cui il mercato ha scommesso molto e che quindi aspetta ora di vedere che novità ci saranno. Fiat ha guadagnato l'1,02% e ha chiuso a 9,9 euro, quindi torna ad avvicinare quota 10 euro. Allora, bene Mediaset più 0,87%, Prismian più 0,85%, il Monte dei Paschi più 0,68%, Exor più 0,67%, Banco Popolare più 0,65%. Complessivamente le banche mi sembrano che abbiano ottenuto oggi, Paolo. Sì, esatto, il settore bancario in tutta Europa anche oggi è stato positivo, con qualche eccezione, però il sottoindice del comparto a livello continentale ha guadagnato l'1,3%, gli istituti continuano a beneficiare dell'effetto dei conti di JP Morgan diffusi ieri e che già ieri avevano sostenuto il comparto, conti che sono stati, ricordiamo, migliori delle attese. In particolare gli analisti hanno apprezzato il calo delle sofferenze, che fa anche ben sperare per il futuro. Azimut un guadagno di 0,5%, Autogrill altrettanto, Telecom Italia chiude con un guadagno dello 0,35%, ebbene anche Pirelli più 0,33%, questi ultimi due titoli. E per quanto riguarda Telecom segnaliamo che sta consolidando quello che ormai è un rally che dura da una settimana. Il titolo è iniziato a salire venerdì scorso sull'attesa della presentazione dei conti 2009 e dell'aggiornamento del piano industriale, e poi ha continuato il guadagno proprio con la presentazione. Da giovedì il rialzo è ormai superiore al 7%, oggi il titolo ha guadagnato lo 0,35%, chiudendo a 1,134 euro. Per quanto riguarda Pirelli, già ieri era stato uno dei titoli migliori, aveva guadagnato oltre il 3%, il mercato attende ormai un'accelerazione sul progetto di spin-off, di scissione delle attività immobiliari, quindi di Pirelli Real Estate, che dovrebbe essere esaminata dai vertici del gruppo all'inizio di maggio. Bene Fondiaria Assai più 0,26%, Eni più 0,23%, più 0,19% di guadagno per Tenaris, Geox, Buzzi, Generali più 0,17%, A2A più 0,14%, Snam Rete Gas dello 0,13%, CIR un guadagno dello 0,06%, in perfetto pareggio Ansaldo, Finmeccanica in pregilo Eterna, Saipem in calo dello 0,10%, Unicredit dello 0,11%, Mediobanca dello 0,12%, ST Microelectronics dello 0,13%, Bulgari dello 0,24%, dello 0,29%, Ubibanca e Unipol, Parmalat 0,35%, Mediolanum 0,40%, Italcementi 0,5% di calo, Intesa San Paolo 0,5% anche qua, Lottomatica meno 0,82%, Campari meno 1,24%, Parmalat e Campari in calo, Paolo, debole tutto il settore alimentare. Sì, esattamente, questo è stato oggi proprio un movimento di settore che per Campari viene amplificato dal trend negativo che il titolo ha avuto nelle ultime sedute, a pesare sul settore che a livello europeo ha perso circa lo 0,3%, è l'andamento della francese Danone che a Parigi ha perso l'1,7%. Danone ha comunicato i risultati di bilancio, ma quello che ha penalizzato il titolo è stato soprattutto l'annuncio che dovrà rivedere le proprie campagne pubblicitarie in Europa sui prodotti Activia e Actimel, che per gli analisti rappresentano tra il 15 e il 20% delle vendite totali, quindi una fetta importante delle vendite di Danone. Dovrà la compagnia escludere dalle pubblicità le allusioni e i benefici per la salute di questi prodotti, e quindi questa incertezza ovviamente oggi ha pesato sul titolo e si è estesa a tutto il settore europeo dell'alimentare. Grazie dunque a Paolo Paronetto, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, grazie ai colleghi di Radio Cor anche per oggi. Adesso c'è la viabilità, subito dopo torneremo a parlare dei problemi di bilancio dei paesi europei, insomma molto abbiamo parlato di Grecia, gli occhi, i riflettori si stanno puntando sulla Spagna. Le 17:49 minuti e 7 secondi, continuano ad arrivare messaggi naturalmente sempre sul tema delle tariffe minime, insomma della riforma degli ordini professionali, insomma ci dice un ascoltatore: non ci sono le tariffe minime solo di avvocati e notai. Sì, lo sappiamo, infatti abbiamo parlato anche dei commercialisti e non solo, comunque il tema è evidentemente sul piatto, visto che ci sono 25 ordini professionali che sono andati dal ministro Alfano, ed è esattamente di questo che stanno discutendo. Una battuta di Bepi: la torta è sempre più piccola, i polli sono già spennati, ci scrive. E poi ci scrive un altro ascoltatore: Angelo, la tariffa minima produce lavoro nero. Questo insomma appunta la valutazione di un ascoltatore. Noi adesso però cambiamo completamente tema, come si diceva parliamo di economia internazionale e parliamo delle condizioni della Spagna. Beh, delle difficoltà di Madrid, sulle difficoltà di Madrid vi abbiamo aggiornato spesso, quantomeno sul fronte dei dati economici, giusto per darvi un'idea. La disoccupazione al momento è intorno al 20%, l'indebitamento delle famiglie al 176% del PIL, che porta il totale dell'esposizione del paese pubblico e privato congiunti al 400% del prodotto interno lordo circa. In gennaio il calo della produzione industriale è stato del 2,5%, anche se qualche piccolo segnale nei giorni scorsi si è visto. Insomma, dopo la Grecia gli occhi si puntano là. Buonasera a Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid. Buonasera a voi. Allora Michele, come mai gli occhi dell'Europa si puntano sulla Spagna? Insomma, abbiamo fornito questi dati che già danno un pochino la misura di quello che sta succedendo, ma c'è effettivamente un caso Spagna? Ma il caso Spagna c'è da mesi, nel senso che il paese si sta riprendendo molto più lentamente degli altri, diciamo, delle maggiori economie europee, e soprattutto sta venendo a galla quello che è cioè la vera dimensione della bolla immobiliare che è scoppiata con la crisi. Vuol dire che le banche sono diventate i principali immobiliaristi del paese per non far fallire il settore, vuol dire che le sofferenze sono in forte aumento, insomma oltre alla parte industriale c'è anche una parte finanziaria, non dico che scricchioli perché le grandi banche vanno bene, ma insomma le casse di risparmio che sono fortemente ancorate alle economie locali hanno dei grossi problemi. L'altro grosso problema è che la Spagna sta soffrendo un po' di riflesso negativo sul Portogallo, nel senso che se salta la diga che è stata creata al confine tra i due paesi, puoi ben capire che se la speculazione inizia a attaccare Portogallo, presto arriva anche in Spagna. Sì, insomma toccherebbe tutta la penisola iberica. Giusto, esatto. per dare un'idea, ieri i rendimenti sui bond, sono stati diffusi i rendimenti sui bond del Portogallo, sono saliti a 130 punti base, sono saliti di 130 punti base, rappresenta il maggior rialzo dal 10 febbraio. Lo spread, questo è lo spread dei titoli decennali portoghesi con il corrispondente Bund tedesco. Peraltro in marzo Fitch ha tagliato il rating del Portogallo a AA- da AA con outlook negativo, e oggi, giusto per completare il quadro, è salito il premio sul default della Grecia, $437,000 per assicurare $10 milioni di bond di Atene, ma è salito anche quello sul Portogallo a $205,000 contro i $179,000 di ieri, e quello sulla Spagna a $155,000 contro i $141,000 di ieri. Insomma, si è detto nei mesi scorsi molto spesso, Michele, che per quanto riguarda la Grecia, al di là poi del fatto che si è trovata una formula di salvataggio, come dire, anche se al limite fosse finito in default, la dimensione della Grecia, anche dal punto di vista del peso sull'economia europea, sarebbe stata, insomma, tutto sommato limitata, insomma, avrebbe consentito una certa gestione. Con la Spagna parliamo di dimensioni decisamente diverse. Sì, per questo dico che anche aggiungo che appunto per le dimensioni della Spagna vedo come ipotesi veramente lontana il fatto che la Spagna possa così trovarsi in stesse situazioni della Grecia. Insomma, la Spagna è comunque un paese che ha delle industrie come Telefonica, come Endesa, come la petrolifera Repsol, è vero, ha delle difficoltà, però ha Santander che ha investito in mezzo mondo ed è quasi la più importante banca del mondo, ha investito massicciamente in Inghilterra aziende come Ferrovial. Insomma, siamo in un altro quadro, ci sono delle difficoltà, ma penso che la forza intrinseca del paese e le sue dimensioni facciano dire che, insomma, diciamo, un fallimento del paese è lontano e non prevedibile. Assai lontano. Tra l'altro c'è un dato positivo che è stato diffuso un paio di giorni fa, perché ci parlavi di una crisi derivante dal boom e dallo sboom dell'immobiliare. In febbraio la vendita di case è cresciuta del 18,7% rispetto ad un anno fa. Direte, ci vuole poco, perché un anno fa eravamo veramente nelle peste, però insomma anche questo, Michele, mi sembra un segnale abbastanza positivo. Sì, è un segnale positivo, e poi ci sono dei segnali che qualcosa si sta muovendo, anche, non so, il dato dell'inflazione oggi, di aumento di inflazione, dà l'idea anche che qualcosa nel paese si stia muovendo, non siamo più in recessione o con la paura della deflazione. Insomma, il Zapatero ha preso degli impegni, sta tentando di varare delle riforme. Il vero noccio della questione è quando arriva la ripresa economica, come ci si fa ad arrivare, quanto sarà lunga questa pausa, così, di chiamiamola, di riflessione, insomma, questo stallo. Vedremo dunque che cosa succederà in Spagna. Ringraziamo intanto Michele Caterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid, per essere stato con noi e averci, insomma, dato un quadro anche abbastanza confortante rispetto a quello che si legge quotidianamente per quel che riguarda il paese. Grazie Michele, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Oh, questo dunque il quadro per quanto riguarda la Spagna. Le altre notizie dalla Grecia, insomma, ve le abbiamo date. Le obbligazioni a 10 anni sono salite a un rendimento del 7,40%, insomma, anche qua il mercato sembra scommettere contro il paese, per quanto, insomma, lunedì arriverà sul posto la missione del Fondo Monetario Internazionale e anche quella della Commissione Europea, faranno il punto della situazione e presumibilmente vareranno gli aiuti. Ci ritroviamo subito dopo il giornale radio, parleremo un po' più approfonditamente di alcuni temi trattati anche nel bollettino della Banca d'Italia di oggi, ossia di consumi, perché è stato presentato oggi il rapporto dell'associazione che raccoglie le imprese low cost, e poi parleremo di lavoro e anche di lavoro nero, perché ci sono anche su questo i dati diffusi dall'Istat. Sono 18:09 in questo momento, alcune delle notizie in breve di questa giornata. Iniziamo dai mercati. La chiusura è stata positiva oggi. Il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,25%, il FTSE All Share lo 0,28%. Le cose vanno bene anche negli Stati Uniti, nonostante ci siano stati dei dati non particolarmente positivi. Lo Standard & Poor's, anzi, ha girato il ribasso adesso, lo Standard & Poor's 500 in calo dello 0,10%, il Dow Jones altrettanto. Si mantengono comunque sopra quota 1200 e 11.000 rispettivamente. Dati interessanti dagli Stati Uniti, come dicevamo, i sussidi di disoccupazione cresciuti di 24.000 unità a 484.000 quando le previsioni erano per un ribasso a 440.000 e la produzione industriale cresciuta dello 0,1%, ma sotto le stime ci si attendeva un rialzo dello 0,7%. Altro dato interessante è quello arrivato dalla Cina questa mattina. Il PIL del primo trimestre è schizzato di un più 11,9%, la più forte crescita dell'ultimo triennio. Parliamo di gennaio-marzo, quando la produzione industriale ha sfiorato una crescita del 20%. Qualche notizia sul fronte della Grecia: i tassi continuano a puntare al rialzo, quelli sul decennale in tarda mattinata giravano attorno al 7,40% contro il 7,05% di ieri. Intanto si è appreso che il 19 aprile, quindi tra pochi giorni, il Fondo Monetario e la Commissione Europea saranno ad Atene per discutere un pochino degli aiuti. Il dato sul commercio estero arrivato dall'Istat: le esportazioni italiane sono aumentate del 7,3% rispetto a febbraio 2009, le importazioni del 12,9% sempre su base tendenziale, e poi invece rispetto a gennaio l'export è cresciuto del 2,5% e l'import del 3,6%. Interessante ancora una volta il dato sulla Cina: l'export verso Pechino è cresciuto del 32,7% nei primi due mesi dell'anno. Adesso veniamo al primo tema di questa seconda parte, parliamo di occupazione. Ci sono dei dati interessanti che sono stati diffusi oggi e anche delle valutazioni interessanti. I dati sono arrivati dall'Istat e riguardano il lavoro nero. Nel 2009 in Italia sono risultate non regolari quasi 3 milioni di unità di lavoro. La stima è stata indicata dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini in occasione di un'indagine conoscitiva presso la Commissione Lavoro della Camera. Nello stesso periodo il tasso di irregolarità, ossia l'incidenza dell'unità di lavoro non regolari sul totale, è risultato pari al 12,2%, in diminuzione rispetto al 2001, quando le unità di lavoro irregolari si attestavano intorno ai 3.280.000 unità. E poi ci sono le indicazioni che sono arrivate rispettivamente dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda Palazzo Koch. Nel bollettino economico si dice che le prospettive occupazionali rimangono incerte in presenza di un progressivo deteriorarsi delle condizioni del mercato del lavoro. Per quanto riguarda invece la Banca Centrale Europea, dà un'indicazione abbastanza precisa: nel mercato del lavoro una sufficiente flessibilità dei salari e il potenziamento degli incentivi all'occupazione sono necessari per prevenire una disoccupazione strutturale più elevata nei prossimi anni. Saluto il professor Pietro Garibaldi, docente di economia politica all'Università di Torino, direttore del Collegio Carlo Alberto ed editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora, inizierei dalle questioni un pochino più generali che riguardano l'occupazione, ossia la valutazione che ha dato la Banca d'Italia, che se vogliamo è anche un po' banale, non ce ne voglia Palazzo Koch, insomma la sensazione ce l'avevamo un po' tutti anche dagli indicatori economici, insomma, che il mercato del lavoro si stesse deteriorando, e poi soprattutto quello che dice la Banca Centrale Europea, che dà un'indicazione abbastanza forte ai Paesi membri, ammesso che ci siano i soldi per mettere in atto questa indicazione, ossia dice una sufficiente flessibilità dei salari e il potenziamento degli incentivi all'occupazione sono necessari per prevenire una disoccupazione strutturale più elevata nei prossimi anni. Lei, professore, vede i rischi di questa disoccupazione strutturale più elevata? Strutturale vuol dire stabilmente più elevata. Il problema dunque è ovviamente il primo problema congiunturale, ossia che l'occupazione si muove sempre in ritardo rispetto al PIL, quindi anche se la grande recessione in termini di prodotto è stata nel 2009, le imprese tendono sempre un pochino a ritardare la diminuzione occupazionale, quindi quest'anno avremo invece gli effetti ritardati fisiologici come di ogni recessione, in cui l'occupazione continua anche a diminuire, la disoccupazione ad aumentare, anche se inizia una lieve ripresa. Questo è un fenomeno di ogni recessione. Poi in questo caso la ripresa è particolarmente debole, non si vede una ripresa che c'è e che non c'è, si parla appunto anche di L, no? A volte si parla in questo gioco delle lettere sulla dinamica della ripresa, e quindi ovviamente le prospettive occupazionali non sono buone. Il bollettino parla di 700.000 occupati in meno rispetto al picco di aprile 2008, è abbastanza impressionante. Questo è un fenomeno congiunturale che può diventare strutturale se alcuni delle persone che ovviamente perdono il lavoro durante la recessione e perdono poi i cosiddetti gli skills, perdono le capacità di utilizzare la loro formazione, perché non la utilizzano per definizione disoccupati, diventano poi più strutturali e più disoccupati di lungo periodo. Questo è come il fenomeno congiunturale tende a diventare strutturale. Strutturale che l'Italia ha comunque dei problemi che sono di medio periodo che ben conosciamo, quindi l'Italia ha un problema strutturale, anche se la disoccupazione indubbiamente è diminuita tantissimo per 5-6 anni fino al 2008. Benissimo, il quadro generale mi sembra chiaro, adesso noi diamo la linea alla viabilità e poi col professor Garibaldi affronteremo il tema del lavoro nero, perché questi dati che ha fornito l'Istat questa mattina ci sembrano abbastanza interessanti, perché indicano nella sostanza un movimento zero sul fronte del lavoro nero, cioè 10 anni fa erano 3 milioni le unità di lavoratori in nero, ad oggi sono sostanzialmente ancora 3 milioni. Allora, i dati in parte ve li fornivamo già poco fa, nel 2009 in Italia sono risultate non regolari quasi 3 milioni di unità lavoro, nel 2001 si attestavano intorno ai 3 milioni 280 mila unità, il tasso raggiungeva il 13,8%. Professor Garibaldi, ci aiuti ad interpretare questi dati. Beh, ovviamente si tratta di una diminuzione non clamorosa, ma di diminuzione si tratta, ossia comunque parlano di circa 300.000 lavoratori neri in meno, che comunque è un bicchiere mezzo pieno, se lo vogliamo, quindi sempre meglio che diminuisca che aumenti il lavoro nero. Naturalmente. Come lo interpretiamo? Come mai il lavoro nero è in piccola parte diminuito? Beh, perché questo è un'ulteriore conferma, questo è un dato più strutturale, stiamo parlando 2001-2009, meno congiunturale, il lavoro nero non si osserva mese per mese, si fanno inchieste ogni 4-5 anni, perché nei momenti in cui la disoccupazione tende a diminuire, e così in effetti in Italia dal 2001, come dicevamo prima, fino al 2008 la disoccupazione è diminuita, anche il lavoro nero tende a diminuire, perché alla fine la disoccupazione e il lavoro nero sono due facce della stessa medaglia. Una serie di ricerche ha chiaramente dimostrato questa cosa. In Italia è particolarmente vero se guardiamo anche in termini, come diciamo noi economisti, cross-sezionali, se guardiamo dove c'è più lavoro nero, c'è più lavoro nel mezzogiorno, che dove c'è più disoccupazione. Cioè, sono due fenomeni simili e quindi per combattere uno ci vogliono gli stessi strumenti per combattere l'altro. Per combattere il lavoro nero bisogna usare gli stessi strumenti per combattere disoccupazione. In sostanza, creare occupazione per combattere il lavoro nero. Sì, o comunque sia mettere in campo quelle riforme strutturali che servono sia alla disoccupazione, a ridurla, quindi creando occupazione, che a ridurre il lavoro nero. E quindi si parla di un processo di flessibilità, indubbiamente aiutato la disoccupazione, ha aiutato anche il lavoro nero. Ovviamente la pressione fiscale, in realtà questo non è avvenuto molto in Italia, molto del beneficio del lavoro è venuto dalla flessibilità, la pressione fiscale è rimasta invariata, semmai è aumentata. Semplificazione, tutto ciò che semplificazione aiuta a ridurre il lavoro nero, questo è in generale gli strumenti, quello che vengono suggeriti. Poi le politiche di controllo, forse sul luogo di lavoro, bisognerebbe farne un pochino di più, vi è poco controllo sul luogo di lavoro in generale nel nostro paese. Le politiche di emersione che sono state invece tentate da diversi governi non hanno avuto tanto effetto, in realtà su quello gli studi dimostrano che è molto difficile, anche perché se emergi una volta poi rischia di tornare in nero. In Italia vi è molto fenomeno di quello che gli studiosi chiamano il caffè latte, il grigio, no? Un po' bianco, un po' nero sostanzialmente. Sì, quindi quello che lei dice, professore, è che quello che ci vuole è una soluzione di politica economica per far emergere il lavoro nero, punto e basta. Sì, sostanzialmente sì. Bene, grazie al professor Pietro Garibaldi, docente di economia politica all'Università di Torino, direttore del Collegio Carlo Alberto ed editorialista della Stampa, per essere stato con noi. Buonasera, professore. Arrivederci. E ora parliamo di consumi. Ne ha parlato oggi anche la Banca d'Italia nel bollettino economico, dicendo che sulle prospettive di crescita pesano la debolezza della domanda interna e la lenta ripresa dell'export, e poi dice che comunque può arrivare uno stimolo temporaneo ai consumi a partire da aprile grazie agli incentivi decisi dal governo. A proposito di incentivi, gli incentivi, lo sapete, partono da oggi. Vi ricordo che trovate molti dettagli, come già vi dicevamo prima, sia sul sito del Sole 24 Ore che sul nostro, se vi scaricate le puntate di ieri e di oggi di Salvadanaio, dove si è parlato proprio di questo tema. Ci sono molte risposte alle vostre domande. E parliamo di consumi anche per la presentazione oggi del secondo rapporto annuale di Asso Low Cost. Abbiamo in collegamento il presidente di Asso Low Cost, Andrea Cinosi. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a voi, naturalmente. Allora, abbiamo sentito che la Banca d'Italia segnala una situazione piuttosto difficile sul fronte dei consumi. Mi sembra di capire, ed è quasi ovvio notarlo, che invece le cose per voi siano andate in maniera lievemente diversa. Sì, assolutamente. Proprio a causa di una congiuntura sfavorevole, ma anche insomma a causa dell'affermazione di modelli di business pionieristici in passato, il low cost proprio in queste circostanze registra livelli di crescita nel 2009 del 12%. Questo è il segnale che riesce a interpretare due ambiti che sono proprio iscritti nel nostro DNA, che appunto chiamiamo a solo cost, qualità e valori, cioè da una parte il prezzo basso, ma la capacità anche delle aziende di rendere nei singoli settori produttivi quei valori considerati essenziali dai consumatori. Nell'analisi che voi avete effettuato e che avete diffuso oggi è emerso quello che alla fine abbiamo fatto emergere spesso anche nei mesi scorsi, cioè come sta cambiando la tendenza al consumo degli italiani, che forse è l'aspetto un pochino più interessante, non solo degli italiani, in realtà un po' di tutte le economie evolute. Si parla addirittura nella vostra analisi di un sorta di senso di colpa del giorno dopo quando si tratta di acquisti eccessivamente cari. Insomma, sembra che ci sia una tendenza da parte dei consumatori ad acquistare con molta più cautela e con molta più responsabilità, se vogliamo. Assolutamente sì, perché da una parte ci sono gli acquisti incomprimibili, se pensiamo alle spese per la casa, per l'energia e quant'altro, cui non possiamo rinunciare, lì non possiamo che cercare di ridurre la spesa. Dopodiché ci sono degli acquisti legati molto spesso a quello che viene definito il nido domestico, perché oggi si sta molto più in casa rispetto a ieri, quindi tutto quanto è legato alla tecnologia che si è scelto magari di acquistare a rate o internet, e che oggi rappresenta un peso importante per il bilancio delle famiglie, vale circa il 58% del reddito disponibile. Ci si è accorti che a debiti di 20 euro al mese, 30, 40 euro al mese, alla fine il nostro reddito mensile è fortemente condizionato. Così nasce questa sorta di senso di colpa e ci si dice semplicemente: bene, riflettiamoci, torniamo con i piedi per terra e cerchiamo di acquistare in maniera selettiva. Un'ultima domanda, presidente, e riguarda quella che è una tradizione del consumo non solamente italiano ma appunto in tutti i paesi ad economia evoluta, che è la fedeltà alla marca. Insomma, la crescita del low cost con tassi del 12%, come abbiamo visto, sembra un po' disperdere questa tendenza. Guardi, tutto parte dall'idea che tutti noi comunque siamo diventati più selettivi negli ultimi anni rispetto a 20 anni fa. Chi ha vissuto gli anni 80, tutti noi siamo più attenti a ciò che acquistiamo, quindi molto semplicemente confermiamo i nostri acquisti se abbiamo trovato quegli elementi di valore che ci aspettavamo di trovare. In caso contrario, che si tratti di marca affermata o che si tratti di low cost, perdiamo la nostra fedeltà e siamo portati a sperimentare altro. Grazie dunque ad Andrea Cinosi, presidente di Assolo Cost, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, grazie a tutti e un saluto agli ascoltatori. Bene, siamo in chiusura di puntata, giusto il tempo per rispondere a un paio di sms, quantomeno ad uno, all'ascoltatore che ci scrive: il lavoro nero serve ad ingrassare il capo mafia che riesce ad avere in subappalto le commesse dalle aziende che sembrano sane. Non è solamente quello il lavoro nero. Quando il lavoro nero incide per il 12,8% sul totale del lavoro, non può essere chiaramente solo questione di mafia. E certo, in Calabria il tasso di irregolarità è pari al 27,3%, però tenete presente che la regione più virtuosa è l'Emilia-Romagna, dove comunque il tasso di irregolarità ammonta all'8,1%, e quindi oggettivamente un dato notevole. A chi ci chiede, Andrea nella fattispecie, come si misura il lavoro nero se per definizione è sommerso, viene misurato naturalmente in maniera indiretta, perché in maniera diretta non può essere misurato, non ci sono contratti da contare perché appunto è lavoro nero, per il resto ci affidiamo naturalmente all'Istat. 3:18, 26 minuti, 47 secondi, è tutto per questa puntata di Focus Economia. Grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Paolo Colleoni in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Radio 24, la passione si sente.